5H. Ascolta e rispondi. Vuoi leggere questa rivista? Sì, voglio leggerla. Vuoi visitare la mia casa? Sì, voglio visitarla. Vuoi conoscere quella signora? Sì, voglio conoscerla. Vuoi lasciare questa città? Sì, voglio lasciarla. Devi aspettare tu, Mario? Sì, devo aspettarlo io. Devi guidare tu il fuoristrada? Sì. Devo guidarlo io. Devi ricevere tu il direttore? Sì, devo riceverlo io. Devi preparare tu il pranzo? Sì, devo prepararlo io.